9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon Santa Rosa da Lima, buon martedì 23 agosto 2011. Oggi ci occupiamo di un altro capitolo della manovra bis varata in fretta e furia dal governo per adempiere alla richiesta imperativa che era venuta dalla Banca Centrale Europea, stante l'attacco che sui mercati veniva ai titoli del debito pubblico italiano. Se volevamo chiedere alla BCE di sostenere i nostri titoli, dovevamo varare in fretta e furia una misura che mettesse in costituzione il pareggio di bilancio. Ricordate per quanti anni da questi microfoni ho chiesto qualcosa di simile, chiedendo però di affiancarlo a una cosa che nella misura non c'è, tanto per cambiare, cioè il tetto al prelievo fiscale, nel senso di una soglia di reddito intangibile per persone e famiglie, che ogni anno venga discusso in Parlamento. C'è anche questo un ordinamento tedesco e serve anche questo per fare il pareggio di bilancio, abbassando le spese, abbassando la pressione fiscale, non alzando le spese, alzando la pressione fiscale, come sempre si fa il recupero del controllo dei saldi pubblici nel nostro dannato paese, se non mettiamo una pistola alla tempia dei politici per farli spendere meno e diminuire le tasse. C'è sempre una ragione perché la spesa corrente cresca come è cresciuta in questi 10 anni, e perché il prelievo fiscale aumenti, perché a quel punto con rigore bisogna aumentarlo, e vai col super IRPEF della manovra e vai con le patrimoniali che fioriscono. A me non piace niente di tutto questo. Uno dei capitoli di questa manovra che più fa discutere, vedremo oggi per una molteplicità di motivi, è quello che puntualmente ripropone un refrain che in questi anni non era andato da nessuna parte. Sto parlando dell'accorpamento, diminuzione, abolizione di una parte congrua delle province italiane e l'accorpamento dei comuni si è deciso nella manovra sotto i 1000 abitanti. Allora, il tema è molto arato e mi pare che spesso sia molto arato senza approfondire però molti particolari che apparentemente possono sembrare dettagli tecnici, ma poi per come funziona il nostro ordinamento, per la complessità delle molteplicità delle sue competenze, funzioni e trasferimenti, fanno come il diavolo con i coperchi la differenza se le si trascura. Per esempio, vi sarete resi conto che nelle immediate 48 ore successive all'aver appreso i particolari della manovra bis del governo, il numero delle province di cui era stato annunciato la sparizione, l'accorpamento, è diminuito verticalmente, perché si parlava di 39, 37, 36, 34, poi abbiamo appreso nel giro di 3 giorni che probabilmente non possono essere più di 22. Perché? Perché variavano i criteri nel frattempo, la numerosità dei residenti e l'estensione? No, perché di volta in volta scoprivamo naturalmente appunto l'esistenza di alcuni particolari che sono quelli fondamentali, poiché capite che se la titolarità a esprimersi e a legiferare in materia, per esempio sulle province delle regioni a statuto speciale, spetta per statuto e regime di specialità della loro autonomia esclusivamente alle regioni, allora capite bene che una decisione assunta in decreto legge relativa a quelle province non va da nessuna parte, e poiché un buon numero di province sta per esempio in una regione come la Sardegna, tenteremo di capire oggi se questo è un vincolo davvero invalicabile oppure no. Abbiamo appreso poi che in realtà il numero delle province da riaccorpare e da assumere solo dopo un censimento che avverrà in autunno, così ha annunciato il ministro Calderoli. Poi c'è il secondo fronte. Il secondo fronte è quello dell'accorpamento dei comuni sotto i 1000 abitanti, e un altro fronte in cui, seguendo le cronache locali, in queste 2 ultime settimane ferve una protesta molto forte. Vi sono regioni come il Piemonte, come la Lombardia, in cui il numero di comuni destinati ad aggregarsi è molto elevato. Anche in questo caso l'intreccio tra protesta locale, politica e partiti da una parte, e dall'altro particolarità dell'ordinamento dei comuni giunge a punti singolari. Lo sapevate per esempio voi che durante il fascismo, l'esecrato, giustamente esecrato regime di Benito Mussolini. Una delle prime cose, nei primissimi anni assunto il potere, che fece il fascismo fu quello di far sparire dalla carta amministrativa del nostro paese oltre 2000 comuni, perché considerati troppo piccoli per essere efficienti. E che una delle prime cose della Repubblica fu naturalmente di ripristinarne più della metà, tornando a farli proliferare al di fuori del vincolo numerico. Pensate che il vincolo numerico del fascismo era quello sotto i 2000 abitanti, e siamo già al doppio dimensionale rispetto a questo che sembra così cosa coraggioso assunto nell'attuale manovra. E sapete poi che man mano nel tempo nell'ordinamento italiano si è assunto un indice di numerosità dei cittadini per istituire i comuni via via più elevato, prima 5.000 negli anni 70 e poi 10.000 con l'attuale ordinamento testo unico dagli anni 90 in poi. Allora la domanda è: perché occorrono 10.000 abitanti per istituire un nuovo comune, considerata quindi una soglia numerica minimale di efficienza e di popolosità di un comune? Per istituirne ne occorrono 10.000, e poi invece possono rimanere in vita comuni di poche decine o pochissime centinaia di abitanti? Sono davvero efficienti? Rispettano davvero le finalità loro affidate dall'ordinamento? Vi rendete conto che il nostro testo unico degli enti locali affida a comuni come quello di Milano e a uno che ha 33 abitanti, ho appreso ieri leggendo un libro di cui parleremo oggi, che è il comune con il più basso numero di abitanti in provincia di Lecco, Morteroni, le stesse funzioni? Ed è possibile mai che davvero queste funzioni vengano svolte allo stesso modo? Evidentemente no. Ed evidentemente ancora una volta quindi forse siamo lontani, molto lontani dall'aver assunto una misura saggia ed efficace e giusta. Se il fascismo indicò in 2000 residenti il bacino di efficienza minimamente accettabile per un comune, e poi abbiamo ripristinato tutti, poi però per farne di nuovi siamo arrivati fino alla cifra di 10.000, allora pensare di riordinare solo quelli fino a 1.000 è un po' poco. Vedremo perché. Comunque in questa prima parte della trasmissione aggiungo naturalmente, per dovere giornalistico, che da ieri proprio a Torino in Piemonte è partita la protesta dei comuni destinati non solo a essere semplificati, per così dire, ma è anche la protesta per i tagli aggiuntivi, per i 6 miliardi di tagli aggiuntivi che la manovra bis riserva alle autonomie e che si sommano naturalmente a quelli di luglio. Sono numerosi gli esponenti della maggioranza che sono in prima fila nel difendere questa protesta, a cominciare da Osvaldo Napoli, che è facente funzione, per così dire, dell'ANCE che del PDL. Sapete che il governatore della regione Lombardia Formigoni è durissimo su questa parte della manovra. In questa prima parte della trasmissione ne parliamo con Giuseppe Castronovo, che è l'autore del libro che io consiglio a tutti di leggere. È uscito per Rubattino, editore che ha i mille meriti agli occhi di noi poveri quattro liberisti di pubblicare molti dei testi in cui noi crediamo, e questo libro per Rubattino si intitola L'accorpamento dei piccoli comuni, e Giuseppe Castronovo ne parla con noi. Leggetelo davvero, perché apprenderete molte cose su questo delicato capitolo. Grazie e buongiorno a Giuseppe Castronovo. Buongiorno a lei e ai telespettatori e ascoltatori. Ascoltatori, non telespettatori, perché siamo per radio. Poi abbiamo, oltre a Giuseppe Castronovo, Giuseppe Castiglioni, che è il presidente del LUPI, cioè l'Unione delle Province Italiane, ed è presidente della provincia di Catania. Lo saluto e lo ringrazio. Buongiorno e grazie. Buongiorno a Giuseppe Castiglioni. Allora, Castiglioni, io comincerei da lei. Ci chiarisce innanzitutto il giallo della competenza. In cosa consisterà questo censimento per vedere qual è il numero finale delle province che davvero saranno soggette alle misure, e che cosa invece concretamente, secondo lei, realisticamente avverrà? No, ma intanto io un apprezzamento, perché lei ha fatto una ricostruzione e ha posto una serie di questioni che sono il nucleo centrale del dibattito del nostro paese. Ma è mai pensabile che nel paese prima si debba fare un decreto legge in una manovra finanziaria che parla di assetto delle istituzioni, e poi si debba sviluppare un dibattito come quello che si sta sviluppando, dove vengono poste ragioni identitarie, ragioni di servizi, di qualità dei servizi, perché penso che la gran parte di noi sono interessate ad un assetto migliore del nostro paese, quindi l'articolo 114 della Costituzione, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni. Noi diciamo perché le città metropolitane non sono mai partite, perché le province, che non ha istituito l'Unione delle Province Italiane, la dimensione territoriale l'ha stabilita il Parlamento, le nuove province sono state stabilite dal Parlamento, sono state istituite dal Parlamento, sono state istituite dai consigli regionali. Allora oggi c'è un tema: come dare efficienza, efficacia ai nostri territori, fermo restando della utilità delle province, perché il tema principale: sono utili questi comuni, sono cosa fanno i comuni, cosa fanno le province, cosa fanno le regioni, cosa faranno le città metropolitane, perché a Milano non una città metropolitana che mette insieme comune e province, perché non a Roma, perché non a Bari, le 10 città metropolitane che erano previste originariamente nel 114 della Costituzione, purtroppo non ne parla più nessuno. Allora, avevamo individuato un tavolo per affrontare questa questione, che la Carta delle Autonomie, approvata alla Camera dei Deputati, oggi in discussione al Senato, discussione già generale già esaurita, presentati gli emendamenti, si potrebbe chiudere in una sola sessione il tema dell'assetto istituzionale del nostro Paese. Altro è il tema dei costi della politica, al quale tema noi, le province, hanno concorso, vogliono concorrere, in questi anni hanno raggiunto l'obiettivo di finanza pubblica, si sono adeguate alle indicazioni che il governo ha voluto dare. Allora, il tema vero è come noi assicuriamo questi servizi ai nostri cittadini. Allora oggi 38, 29, 28, 27 dipende dalla soppressione. Oggi viene stabilita dal governo una dimensione demografica minima per poter assicurare quelle funzioni ai cittadini. Si parla di 300.000 abitanti. Poi è uscito un secondo criterio che qualcuno ha capito che serviva a salvarne una in particolare, si sbagliava secondo lei? Da 38 siamo passati a 29, quindi era più di una, cioè quindi quella che venivano salvate. Quindi sono dei criteri che il governo ha stabilito. Noi potremmo anche alzare la dimensione territoriale, purché si mettono, si sappia chi fa che cosa in questo paese, cosa fanno i comuni, cosa fanno le province, che non ci siano accavallamenti di funzione. E devo dire che questo lavoro in Parlamento si stava realizzando, quindi oggi un'accelerazione. La nota tecnica, se lei legge la nota tecnica che abbiamo potuto leggere al decreto legge, questo ultimo, non c'è un risparmio, un contenimento dei costi dalla manovra e soprattutto di soppressione delle province, perché come diceva lei, intanto riferiamo al censimento 2011, sarà fatto un censimento, i dati saranno forniti nel fine 2012, ottobre 2012, novembre 2012, e quindi chi andrà al voto nel 2012 è chiaro che non potrà, la Spezia, faccio un esempio per tutti, la Spezia va nel 2012, cosa succederà alla Spezia non avendo i dati del censimento del 2011? Questo è uno dei temi. Ma poi la Costituzione, l'articolo 133 della Costituzione prevede: ad iniziativa dei comuni possono essere modificate le circoscrizioni, le dimensioni territoriali, le circoscrizioni territoriali delle province. E allora perché oggi dire con un'iniziativa ex legge, ex abrupto dall'alto, perché non riavviare questo percorso? Noi non siamo contrari all'accorpamento, alla dimensione territoriale, noi riteniamo che questo tema vada affrontato, però va fatto in una sede idonea. A nostro avviso il luogo idoneo è la regione, che stabilisca non solo la dimensione territoriale, ma come segua l'iniziativa dei comuni che possono accorparsi come meglio ritengo. Uno per tutti: provincia di Rieti è limitrofa all'Umbria, alle Marche, all'Abruzzo. Le immagino oggi che la provincia di Rieti, potendosi accorpare alla stessa regione, si dovrà accorpare alla provincia di Roma. E immaginerei un consiglio provinciale che da Roma va a Rieti, o i piccoli comuni del Rietino, quando si parlerà di viabilità provinciale, quando in inverno ci sarà da assicurare la manutenzione, la messa in sicurezza degli edifici scolastici, dei centri per l'impiego, le politiche attive. Immagine una provincia di Rieti che dovrà fare riferimento a Roma, cioè, sarebbe più logico che il territorio si potesse esprimersi a Greghi, all'Umbria, all'Abruzzo per alcune parti, o al... Queste sono alcune delle questioni che noi abbiamo posto, poi fra l'altro essendo un elemento costitutivo della Repubblica, la provincia, non si può dire, nel caso in cui i comuni non si aggregano, le funzioni vanno ai comuni o alle regioni. Le immagini che la viabilità provinciale poi, cioè, in questi giorni sto vivendo così come la legge prevede, per esempio, il dimensionamento scolastico, degli istituti scolastici, ma lei immagina tornare di nuovo ai comuni dove ognuno vorrà il proprio liceo classico, vorrà il proprio liceo scientifico, vorrà il proprio istituto d'arte, vorrà, cioè, non avere una dimensione pianificatoria di un territorio di area vasta. Io dico, chiamiamolo provincia, chiamiamolo libero consorzio, chiamiamolo area vasta, ma la necessità di avere tra il comune piccolo e la regione, che è ente di governo, di legislazione, avere un organo di governo di area vasta, mi avviso di stare. Quindi immagina lei nel dimensionamento scolastico quale sarebbe il costo dei servizi. Ogni sindaco vorrebbe un nuovo istituto, la provincia pianifica, vede la dimensione territoriale, vede quanti istituti, quanti licei classici ci sono, quanti scientifici, quanti professionali, e fa un'azione di pianificazione. Stesso tema potremmo riguardare per la mobilità, stesso tema, le immagini, il tema dell'assetto idrogeologico, ma può un comune avere le risorse sufficienti e necessarie perché si possa dare un assetto definitivo in alcune aree del nostro paese, molto spesso per rispondere a delle emergenze idrogeologiche? Quindi sono molti temi. Allora, finalmente mettiamo al centro, oggi almeno il dibattito ci ha portato a questo, finalmente mettiamo al centro, Onida diceva qualche giorno, non l'idea se la provincia deve esistere, la utilità della provincia, la necessità di un governo dell'area vasta. Quindi questi sono alcuni dei temi. Le dico, io in tema di mobilità ho fatto il piano territoriale della mobilità e il piano provinciale, facendo parlare i 10 attori sulla mia provincia che si occupano di mobilità. Applicando solo la programmazione esistente avremmo prodotto ipercosti, avremmo prodotto ulteriori costi della politica, perché quando non c'è coordinamento, quando le interventi si accavallano, quando gli interventi sono doppione, il collegamento con l'aeroporto lo faceva una struttura, la Circumetnea, ma lo faceva anche le Ferrovie dello Stato, per alcuni esempi per tutti. Allora è necessario che questo paese un attimo trovi la sede idonea per poter parlare di assetto delle istituzioni. E dall'altro lato ci iscriviamo a questo capitolo della riduzione dei costi della politica. Cioè, quando si accorpa una provincia, allora il giorno dopo la questura, la prefettura, il comando dei vigili del fuoco, che hanno tutti dimensione provinciale, si accorperanno pure. Noi diciamo, poniamo questo problema, mi pare più che evidente. Allora, se questo è il tavolo, se il ragionamento è il comune, se finalmente si vuole iscrivere, si vuole uscire da questa logica, ma è possibile che io non ho mai avuto la possibilità di interloquire, cioè, né nel mio partito, lo dico nel mio partito, lo dico al mio nuovo segretario politico, ma è per poter parlare. Ma né col ministro? Né con i ministri competenti, mai è successo in questi due anni? No, quindi ci sono, no, con i ministri ci sono di volta in volta dei tavoli separati, ma la possibilità, cioè io ogni giorno devo sentire il mio amico Alemanno che dice sopprimiamo le province tutte, cioè azzeriamo le province, non dice il giorno dopo a chi andranno i piccoli, la gestione dei servizi delle province, va bene. Ma soprattutto non affronta il tema delle partecipate, cioè perché non affrontiamo il tema delle partecipate della comune di Roma, esatto. Le partecipate abbiamo censito 7 aspetti, miliardi. Aspetti, io la devo fermare perché lei è un fiume inarrestabile, ma era per dare un'idea ai nostri ascoltatori che naturalmente il presidente Lupi dice: beh, benissimo, come avrete capito, siccome c'è un censimento di mezzo qua per anni non si muove niente in attesa del censimento, uno per la trentina o ventina di province individuate nel criterio dei 300.000 abitanti e 3.000 chilometri quadrati. Secondo, il presidente non l'ha detto, ma c'è il problema della competenza per le province nelle regioni a statuto speciale, che hanno una competenza rafforzata su questo. Quindi io prevedo, mi sbaglierò, ma Oscar Giannino, non spetta al presidente Lupi dirlo, ma io prevedo che questo è un capitolo che secondo me non ci porta da nessuna parte. Perché non ci porta da nessuna parte? Perché individua, appunto, per costi della politica, certo, risparmi pubblici, ma in realtà, parliamoci chiaro, i 61.000 dipendenti delle 107 province Italiane, quando anche l'abolisco, come sapete, non è che poi li possiamo licenziare, e naturalmente non lo dico perché vorrei licenziarli, però insomma quei 2,3 miliardi che è il costo dei 61 mila dipendenti nel 2010 non si risparmiano, e così via. Le competenze, naturalmente, da quella della viabilità, i 125 mila chilometri di strade da manutenzionare, gli istituti tecnici superiori, i centri per l'impiego, i vecchi uffici del collocamento, che sono un'altra competenza della provincia, quelli restano tutti, e così via. Quindi alla fine, certo, ci sono i politici delle province. Ricordo a tutti che il totale, in questo caso di giunta e consiglieri provinciali, ha un costo stimato anno totale in Italia di 113 milioni, siamo ben lontani dai miliardi. Naturalmente qui stiamo parlando di alcune decine su 107, e naturalmente senza toccare quelli che hanno i trattamenti davvero pazzeschi, secondo me, cioè quelli di regione statuto speciale, come le province statuto speciali di Trento e Bolzano, perché se pensate che Durvalder guadagna 340 mila euro lordi, al massimo un presidente di provincia arriva a 50.000 l'anno, lui ne fa 340.000. è la solita storia per cui le regioni a sud speciale sono un po' le maglie nere. Naturalmente adesso mi si dirà: sì, ma in cambio il Trentino Alto Adige vedi che cosa offre. Sì, ho capito, vedi anche che cosa costa in trasferimenti. Secondo me questo capitolo non ci porta molto lontano, ma posso sbagliare. Abbiamo collegato con noi adesso Fulvio Tocco, che è presidente della provincia del Medio Campidano. La regione Sardegna è una regione interessata a numerose ipotesi contestuali di province che non superano i 300.000 abitanti, anzi sono abbondantemente al di sotto della metà, e sono al di sotto dei 3.000 chilometri quadrati, e quindi la carta amministrativa della regione Sardegna, ove si applicasse davvero questa misura, cambierebbe radicalmente. Naturalmente però anch'essa è una regione a statuto speciale, quindi chiedo a Fulvio Tocco, il presidente della provincia del Medio Campidano, che dovrebbe sparire: primo, che cosa avverrà davvero in Sardegna; secondo, qual è la sua sincera opinione in ambito all'ottimizzazione di questo ambito di competenza relativo alla numerosità dei residenti e relativo all'estensione. Prego, presidente Tocco. Ma io devo dire che in Sardegna il sistema delle province ha modificato un po' la dinamica di questo ente intermedio, che storicamente agiva soprattutto in funzione delle grandi città o dell'entroterra a cittadino. Mai la provincia madre, rispetto a quelle nuove, si è spostata oltre 15-20 chilometri dalle grandi città, quindi in effetti non svolgeva una funzione di provincia così come sono previste dalla Costituzione italiana, e i centri che rimanevano lontani non beneficiavano di questa funzione di coordinamento. Io ero sindaco di un comune agricolo della Sardegna e devo dire che la provincia madre non si occupava mai delle attività produttive del territorio distante 30 km da Cagliari. Da qui è nata la necessità, dopo che la condizione socio-economica delle zone rurali è precipitata, di riorganizzare il sistema regionale con 8 province. E devo dire che il Medio Campidano, una piccolissima provincia del territorio, pur non avendo deleghe specifiche in materia di attività produttiva, si è distinta sullo scenario regionale e italiano per aver utilizzato con delle briciole finalmente una forma di aggregazione dei contadini e dei pastori del territorio per rendere nuovamente produttivo il territorio, ed ha sperimentato un progetto che ha chiamato Vivere la Campagna, che grazie all'ente di coordinamento mette insieme 28 comuni e 1.276 imprese che hanno voluto sperimentare una nuova via per sviluppare attività produttive. Nell'interesse dell'economia generale, della bilancia commerciale sarda, è che se sviluppato in forma strategica a livello regionale mette in moto il settore dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi. Secondo lei passerà questa linea, oppure ciò che è consentito anche in termini di competenze dagli istituti speciali farà rimbalzare questa iniziativa del governo nel tempo e senza risultati? Credo che su questo aspetto si svilupperà una necessaria, perché così come è stata posta in un alveo sbagliato la questione dell'accorpamento delle province, quindi non nel luogo deputato, che a mio avviso era già in discussione quando si è lavorato in Italia per fare la cosiddetta carta dei comuni, il codice delle autonomie locali, quel documento che manca proprio per dire che la razionalizzazione dell'attività dello Stato viene posta in essere con l'eliminazione dei cosiddetti enti doppione, che poi sono il peso vero di questa Italia. Non so se è noto il dato, però oltre le forme organizzative della Repubblica previste dalla Costituzione, dal 48 a oggi sono stati costituiti circa 7.000 enti. 7.000 enti che hanno i loro apparati, 7.000 enti che hanno 24.000 consiglieri di amministrazione, che è ben altra cosa rispetto ai 4.004 del sistema delle province italiane, e devo dire che quella formula ci mette nella condizione di poter agire fuori dalle norme del testo unico, che è una delle norme più importanti del sistema pubblico italiano, in modo tale che chi amministra abbia le mani libere rispetto a quei controlli. Allora, io ringrazio anche il presidente della provincia del Medio Campidano, Fulvio Tocco. Adesso andiamo in pubblicità e poi affrontiamo la questione dei comuni. Oh, naturalmente dimenticavo, eccoci tornati in studio dopo la pubblicità, di dire che è a rischio anche una parte considerevolissima del tanto decantato taglio degli oltre 50.000 posti della politica che il ministro Calderoli sempre vi bombarda tutti i giorni, che è nella manovra, cioè il numero di assessori e consiglieri delle autonomie che vengono meno, perché dei 49.326 tra assessori e consiglieri di regioni, province e comune che con i nuovi criteri indicati nel provvedimento del governo verrebbero meno, un quarto praticamente ricade anch'esso nelle regioni a statuto speciale, e con gli statuti speciali è la regione a legiferare sull'ordinamento di province e comuni. Lo dico perché i grandi numeri fatti, a prescindere da come funziona l'ordinamento, servono per fare titoli sui giornali. Spesso colpevolmente noi giornalisti, nella foga delle ore immediate, li facciamo rimbalzare così come vogliono gli estensori dei provvedimenti, e scopriremo poi inevitabilmente che le cose stanno in maniera molto diversa. Probabilmente bisogna oramai adottare il criterio che nel nostro paese è impossibile riferire dei decreti legge di grandi manovre del governo se non a distanza di una settimana. Tanto i testi li scrivono dopo averli varati in Consiglio dei Ministri, dopo, in piena, manifesta, palese, inaccettabile, intollerabile violazione di legge. È così che fanno. Secondo me i giornali dovrebbero dire: beh, tra una settimana, quando avremo i testi, avremo capito davvero, noi informiamo i cittadini, voi nel frattempo dite quello che volete. E vi garantisco che i politici reagiscono molto male quando si sentono dire cose simili, però è così, perché la complessità di un ordinamento come quello italiano purtroppo deve indurci alla diffidenza, ma non tanto verso il politico che ci vuole fregare, quanto perché soluzioni a problemi complessi devono essere per forza complesse, altrimenti non vanno da nessuna parte, e purtroppo il nostro è un ordinamento complessissimo. Ecco, parliamone un secondo, più di un secondo a dire la verità, perché meriterebbe una puntata intera il libro che io consiglio a tutti, di Giuseppe Castronovo, L'accorpamento dei piccoli comuni, dove voi troverete una disamina innanzitutto lungo l'intera evoluzione moderna del nostro ordinamento, dell'unità oggi, del problema ottimizzazione dell'ambito dimensionale dei comuni, primo. Secondo, troverete approfondite le dati su le classi di numerosità e di estensione dei comuni italiani. Terzo, ho trovato un ragionamento che a me colpisce, perché in base allo stesso articolo 97 della Costituzione, quello che presiede all'imparzialità, all'efficienza della pubblica amministrazione, l'autore che è qui con noi e a cui adesso cedo la parola, deduce che per non violare la Costituzione, allora l'ambito ottimale dei comuni va individuato in una dimensione economica e con calcoli di efficienza economica, e andando ad analizzare qual è la spesa corrente pro capite, quindi in relazione al numero dei propri residenti dei comuni, si trova un'indicazione di quale sia la classe dimensionale ottimale dei oltre 8.100 comuni italiani, ed è quella nella fascia superiore ai 5.000 residenti, perché nella fascia inferiore la spesa corrente pro capite è molto più alta, perché l'apparato organizzativo è inefficiente rispetto alla bassa numerosità dei dipendenti, e quindi i comuni polvere, secondo la vecchia identificazione che ne faceva il professor Massimo Severo Giannini, sono economicamente inefficienti per definizione. Ma è anche vero che la spesa poi torna a salire anche nei comuni grandissimi, e allora se 5.000 dovesse essere davvero la fascia dimensionale di ottimizzazione dei comuni, noi dovremmo dedurne che però a essere superiore ai 5.000 abitanti sono pochi, perché avere meno di 5.000 abitanti sul totale degli 8.100 comuni ce ne sono 5.700 errotti, ne hanno meno di 5.000, sono fuori dalla fascia di ottimizzazione. Però, e qui concludo cedendo la parola a Giuseppe Castronovo, naturalmente far fuori 5.700 comuni accorpandoli creerebbe le reazioni che in Italia ci sono sempre rispetto al radicamento, la storia, il localismo, se volete cancellare la storia e così via. Giuseppe Castronovo, che cosa attendersi dunque alla luce di questo suo libro, ne ripeto il titolo, L'accorpamento dei piccoli comuni, editore Rubettino, che cosa si aspetta lei, che è un propugnatore ordinamento alla mano, del, diciamo così, non più un comune se ha meno di 5.000 abitanti? Buongiorno ancora, ma mi aspettavo, uso l'imperfetto, mi aspettavo una maggiore ponderazione nelle decisioni governative, perché uno dei punti di criticità dell'attuale proposta governativa sta nell'avere individuato quel parametro 1.000 che assolutamente non può essere identico in montagna e in pianura. Vede, io tanti anni fa iniziai la carriera di segretario comunale in una valle del Piemonte. In quella valle c'erano 38 anni fa tre comuni come ci sono adesso, e i tre comuni insieme sommano non più di 1.500 abitanti. Ebbene, quei tre comuni, se si fondessero, sarebbe un successo, basterebbe che si fondessero tre senza coinvolgere altre vallate. Ma il parametro 1.000 in pianura, dove magari a distanza di 2-3 chilometri trovo due realtà di 4 o di 5.000 abitanti ciascuno, ritengo assolutamente non scandaloso dire che quelle realtà vadano unificate, vadano accorpate, perché in pianura i parametri devono essere differenti. Però vede, il discorso è che purtroppo, uso l'avverbio purtroppo non casualmente, i politici con i quali ho avuto occasione di parlare in questo anno in cui ho scritto il libro, ho notato che i politici, non voglio dire con dolo, però hanno nascosto i vantaggi economico-finanziari per le collettività che volontariamente si accorpassero, perché l'attuale legislazione per i comuni che si accorpano volontariamente prevede contributi aggiuntivi decennali, puntualizzo, contributi aggiuntivi decennali pari al 20% dei trasferimenti erariali certificati nell'anno precedente all'accorpamento. Però Castronovo, perché si sorprende? Perché si sorprende? Una volta che io politico di un comune destinato all'accorpamento lo dicessi ai miei elettori, allora gli elettori capirebbero che loro ci guadagnano, però io poi perderei il posto una volta che... Non solo contributi statali, poiché c'è un decreto, lo posso citare, dico sono il 20% di trasferimenti erariali, ma a questi vanno aggiunti contributi regionali e ogni regione ha dato una sua determinazione, li ha quantificati in modo differente. Però fatto sta che Castronovo, malgrado questi incentivi, gli accorpamenti non ci sono mai stati, anzi di comuni ne sono continuati a nascere, questa è la amara verità. Perdoni che il sottotitolo del libro è un tortuoso e difficile percorso tra vincoli costituzionali e mancanza di volontà politica. Infatti, questo è il punto. Vede, perché diciamoci la verità, la rivoluzione dell'attuale Costituzione, la Costituzione del 1948, il buono, e lo dobbiamo difendere, è questo. La Costituzione del 48 ha costituzionalizzato il principio dell'anteriorità della persona rispetto allo Stato e agli altri istituti, esatto, comuni. Un'anteriorità che rovescia la prospettiva degli stati a regime autoritario. Certamente, però per quello che riguarda i piccoli comuni, l'elemento personale del comune, cioè appunto la popolazione, spesso manca, questo è il problema vero. Quindi se dovessimo assumere anche questo metro per giudicare la piena rispondenza di come funzionano sul territorio dei comuni rispetto ai principi che dovrebbero costituzionali, che dovrebbero adempiere, dovremmo dedurne che un ente locale privo di personalità, cioè che ha una numerosità così bassa che rende problematico comporre le liste elettorali, l'efficienza e l'efficacia degli organi comunali e così via, non sta in piedi. Però ripeto, il fascismo l'aveva individuato in 2000 persone, eravamo arrivati a individuare in non meno di 10.000 abitanti la numerosità minima per creare nuovi comuni, e da 5.000 in su, che numeri alla mano, c'è un'ottimizzazione della spesa corrente. Poi il governo a un certo punto si alza e decide e dice 1.000. E però rispetto a questo ci sono forte proteste. Sentiamo, ci ha chiamato il sindaco di Voltaggio, che è un comune nella provincia di Alessandria. Sentiamo la sua opinione, intanto lo ringrazio e lo saluto, buongiorno. Buongiorno dottor Giannino, grazie mille dello spazio che mi date, ringrazio anche il dottor Castronovo perché ha detto una cosa fondamentale. Ha parlato delle differenze tra i comuni di montagna e i comuni di pianura. Nel nostro caso, per esempio, la Vallemme, essendo avvallata della provincia di Alessandria, la legge che prevede 5.000 di minima non è applicabile perché il mio comune confina con soli due comuni che hanno 3.000 abitanti, tutti gli altri ne hanno più di 1.000. Ma anche se noi ci unissimo e quindi costituissimo un'unione di comuni di tre comuni soltanto, il risultato sarebbe che avremo un comune con una superficie di circa 74 chilometri, cioè di gran lunga il più grande comune per superficie della provincia di Alessandria. Bene, invece i servizi associati che sono già in essere, li stiamo già applicando insieme ad altri comuni, insieme alla comunità montana, e che sicuramente rappresentano un'importante razionalizzazione e miglioramento. Lo dico anche riportando un dato che credo sia utile. Il mio comune dell'Unità d'Italia non ha mai chiuso un bilancio in disavanzo. Grazie mille. Beh, effettivamente quando si parla a nome di bilanci sempre in nero invece che in rosso, capisco che evidentemente c'è un criterio che dà un titolo. È chiaro però che la maggior parte dei comuni così piccoli, secondo me, non è nelle condizioni di offrire quei servizi di sicurezza, di infrastrutturazione sociale, che sono quelli fondamentali, richiesti, ripeto, da espletare in maniera totalmente uguale dal testo unico attualmente vigente, tanto a Milano o a Roma, quanto al comune che ha poche centinaia o poche decine talvolta di abitanti. Ci ha chiamato un altro sindaco, il sindaco di Ronco all'Adige, che sta nella provincia di Verona. Prego, signor sindaco. Buongiorno, dottor Giannino, lei e i suoi ospiti. Semplicemente volevo fare un paio di appunti per quanto riguarda i costi della politica sui comuni e sulle province. Beh, innanzitutto devo dire che non si troverà mai un sindaco in Italia che sarà disposto ad accorparsi con i comuni vicini. E non si trova, infatti. A meno che non venga imposto. Poi dobbiamo tenere presente il costo burocratico di tutti questi piccoli comuni, perché alla fine tutte le esigenze di questi comuni come un imbuto vanno a finire su un apparato un po' che dovrebbe gestire un po' sopra, diciamo. Però lei da sindaco, se ci dice il sindaco non è mai favorevole, che cosa ci propone per sfoltire i costi e per avere dimensioni ottimali? Beh, io direi innanzitutto che per legge dovrebbero essere tirati via i comuni, come è stato proposto, dovrebbero essere tirati via dei comuni piccoli, cioè fino a una certa dimensione. Non possiamo star qua ad aspettare il referendum, i conteggi, eccetera, perché qua si sta minando il camperlaia. Oh, il tempo passa. Mi piace la sua concretezza. Da sindaco dice abbiamo bisogno di qualcuno che ci sfoltisca, certo, perché sennò non è possibile. E poi per quanto riguarda le province, dottor Giannino, non sono solo i costi del politico, perché ogni provincia ha una miriade di commissioni che gli girano attorno. Sì, certo, queste certo. Persone che girano sono pagate anche quelle, non so rispetto al costo del politico queste quanto costerebbero di meno, ma io sono convinto che siamo lì, perciò già la cifra si raddoppia. Ecco, tutto qua. Grazie, grazie. Perché non ne possiamo più. Esatto, questo mi piace, che lei parla da cittadino, più che da sindaco o da amministratore, perché effettivamente molti sms che stiamo raccogliendo ci dicono, ma com'è? Parlano solo loro, ma le ragioni nostre che paghiamo? Questo è in effetti ciò di cui ci occuperemo nella parte finale di questa trasmissione. Soppressione provincia, accorpamento dei comuni, questo è il capitolo che stiamo approfondendo. diffondendo oggi. Sentiamo alcuni di voi. Cominciamo da Gianni, che ci ha chiamato da Viterbo. Prego Gianni. Buongiorno Giannino a tutti gli ospiti. Allora, io sono un imprenditore, logicamente ragiono pragmaticamente, e qualunque cosa metto in campo ho bisogno di un progetto. Esiste un progetto di territoriale Italia? Penso di no. Sentivo prima la provincia di Rieti, l'eliminazione della provincia di Rieti sta qui vicino a me, e a sto punto dico eliminiamo la provincia di Roma, cioè facciamo l'area metropolitana di Roma, perché essere Roma capitale e area e provincia di Roma non c'ha senso logico che esistano tutte e due, per cui può esistere la provincia di Rieti accorpando una parte della provincia di Roma, e così allarghiamo l'area metropolitana di Roma in modo che si può organizzare meglio. Secondo, noi abbiamo avuto Napoleone che ci ha suddiviso il territorio, è stato suddiviso ancora il territorio con le ASL. I comuni non vogliamo eliminarli? Creiamo, abbiamo 5 ASL, VT1, VT2 fino al VT5, sono aree territoriali che sovrintendono a determinate cose, dove possono essere visti anche le cose scolastiche e tutte altre cose. E poi abbiamo il discorso che certe cose vanno organizzate per poter non soltanto portare risparmio, ma razionalizzando già significa che le cose funzionano meglio, già funzionare meglio significa risparmiare. Ora, il tema, uno dei temi sollevati da Gianni nel suo intervento, l'ottimizzazione già esistente, per esempio in uno degli ambiti fondamentali dell'offerta dei servizi sociali, cioè quella sociosanitaria attraverso le aziende sanitarie locali. E questo è un criterio oggettivo, e tra l'altro vi invito a riflettere, è un criterio oggettivo che sottolinea come non vi è solo l'inefficienza delle numerose migliaia di comuni polvere, quelli piccoli, ma vi è anche un problema di efficienza, di inefficienza invece dei comuni quando diventano troppo grandi. E a quel punto infatti hanno più ASL al loro interno, come dimostra la necessità di offrire servizi efficienti, non è l'ambito comunale, quando il comune è enorme nemmeno l'ambito di quel comune è ottimale. Virgilio da Ravenna, che ne pensa? Oscar, buongiorno, grazie per lo spazio. Io direi che uno dei criteri dovrebbe essere il bilancio del comune. Perché se un comune piccolo, 1000, 1500, non lo so, un tot di abitanti, però hanno tutti i servizi, o buona parte di essi, chiudono in attivo, si devono andare ad accorpare con un comune vicino che magari ha i conti sbracati, gli amministratori corrotti e compagnia cantante. Premetto, abbiamo visto ad esempio adesso con la raccolta dei rifiuti di Napoli, comuni che avevano l'85% per dire di raccolte differenziate, comuni col 10%. Cioè, allora, automaticamente logica direbbe, da uomo della strada, gli amministratori del comune grande che hanno i conti sbracati se ne vanno a casa e prendono in mano i conti quelli del comune piccolo. In una famiglia si ragionerebbe così, o no? Lei lo sa che il politico dice sempre che le ha fatto quello che veniva prima, i buchi, eh? No, ma senz'altro, però c'è la Corte dei Conti regionale o nazionale, esatto, che li controlla, esatto. Non credo che se li inventino dalla mattina, no? Esatto. Allora, io dico, prima di far scendere del fumo negli occhi e in faccia alla gente, cioè cerchiamo di essere un po' più realisti. Io non sono per il piccolo e bello, non sono un immobilista, però che un comune che abbia servizi e tutto a posto, perché ce ne sono anche io qui nelle colline della Romagna, ci sono degli assessori sul giornale, testimoniano, prendono 200 euro all'anno per fare i loro servizi e hanno i conti in regola. Ma si devono attaccare a un comune che ne fa di cotte di crude, ma siamo impazziti o che? Questi qui che glieli dai i servizi che avevano prima. Grazie, buona giornata. Grazie anche a Virgilio. E con noi adesso il presidente della provincia di Savona, Angelo Vaccarezza. In Liguria il dibattito sugli accorpamenti ha portato alcuni a dire ma perché non ce ne andiamo in Francia piuttosto? Ma al di là delle battute, la Liguria è una regione interessata approfonditamente dal riordino delle province, così come è stato indicato con i due criteri da parte del governo. Allora, Presidente, che faccio la stessa domanda che ho fatto al suo collega Emilio Campidano: che cosa si aspetta davvero che avvenga, visto che c'è un censimento di mezzo, e invece qual è la sua opinione in ordine ai criteri indicati e a quelli che, ottimali invece per riordinare la sovrapposizione degli enti territoriali amministrativi? Ma buongiorno a tutti innanzitutto. ma che ci troviamo, oltre che in un momento di grande crisi economica, anche di grande confusione amministrativa e istituzionale, è vero. Oggi quando uno ha bisogno di un permesso va in comune, poi va in provincia, poi va in regione, poi va in conferenza dei servizi, rischia di dimenticarsi nemmeno il motivo per cui ha chiesto la concessione e magari poi era un'attività produttiva che creava posti di lavoro. Quindi che sia ora, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista istituzionale, di mettere le mani nel paciugo che abbiamo creato stratificando la politica italiana è giusto. Che ce lo si possa mettere con una manovra finanziaria che d'amblè mette le mani con un, da un punto di vista squisitamente economico e tenta, dando dei criteri, io ho apprezzato molto quello che ha detto il professore prima, sono criteri assolutamente dettati dall'emergenza di dover dare un numero. Poi vorrei dire al ministro Calderoli che quando parla di poltrone si ricordi che la poltrona di un parlamentare che percepisce la pensione a partire dai 60 anni e quella del sindaco di Massimino, 172 abitanti, che prende 22 euro al mese, non sono la stessa poltrona. Ma insomma, se bisogna dare i numeri alla gente, diamoli. Poi arriviamo al caso Ligure. Il caso Ligure fa parte del paciugo di questo periodo, perché vede, se avessero detto eliminiamo le province, era un ragionamento condivisibile o meno, ma serio. Era un ragionamento che ci metteva davanti a valutare le competenze attuali delle province e come poter far svolgere queste competenze. Ma dire le aboliamo solo alcune rende ad esempio la Liguria, che oggi ha 4 province, Savona, Imperia, Spezia e Genova, alla fine della manovra ad avere una provincia sola, la provincia di Genova. Quindi una città metropolitana che svolge funzioni di provincia in un territorio complesso come il nostro, dove le strade franano ogni 2 minuti. Allora noi diciamo una cosa, o prevale il buonsenso, nasce la città metropolitana di Genova e a questo punto accorpino pure Levante e Ponente, quindi rimarranno 2 province, da una parte il Ponente, da una parte il Levante e al centro la città metropolitana, oppure se continua questa impostazione ci consentono almeno di scegliere con chi andare. E quindi se il governo stringe il cappio che la provincia di Savona e quella di Imperia, ma il mio collega di Spezia la pensa come me, possano fare un referendum per decidere la pianta a cui legare la corda. Se eventualmente piemontese, io da piemontese la vedrei così, però detta questa, no, è il criterio generale, per questo ho scelto il presidente della provincia di Savona, è un criterio logico. Vedete, io sono conosciuto per essere un selvaggio tagliatore, dipendesse da me, ma il problema è con questi criteri credere di fare tutto con la provincia di Genova in Liguria, quando poi dalle altre parti resteranno numerosissime le province, è una stupidaggine, è evidente agli occhi di tutti che... E quindi ho usato questo esempio perché al di là delle ragioni sostenute dagli amministratori locali è evidente che interventi fatti così non ci porteranno da nessuna parte. Vi stanno illudendo sull'entità dei tagli che vengono da queste cose, perché questi tagli non verranno realizzati con questi criteri da imbecilli, non si ottiene niente. Io uso parole pesanti dicendo che sono criteri da imbecilli, ma il minimo che chiedo da parte di ministri competenti, che dovrebbero conoscere la delicatezza dell'ordinamento amministrativo locale, è di non intervenire solo per fare titolo per 24 ore. E se la BCE gli chiede di tagliare spesa corrente, come è giusto, per comprare titoli italiani, devono andarli a prendere laddove la loro competenza può produrre risultati immediati, invece che laddove nella complessità vischiosa dell'ordinamento amministrativo e localistico italiano e diventa tutto più complicato se non si hanno criteri ben individuati, messi a fuoco e contrattati. Allora, io torno a dirvi, leggete il libro L'accorpamento dei piccoli comuni di Giuseppe Castronovo, che ringrazio per essere stato con noi. Tantissimi erano in attesa ancora di parlare, ho tentato di essere il più rapido possibile oggi, ma avrete capito che ancora una volta la mia conclusione è: diffidate. Ci sono altre materie, ripeto, pensioni, ripeto, privatizzazioni della parte immobiliare di Stato, su cui la politica è neghittosa e continua a dire no, come ancora Bossi ieri mi ha deluso, perché vuol dire che non capisce veramente più forse su quale terra ha i piedi, e lì bisogna chiedere gli interventi in 48 ore, non qui, dove avrete capito oggi, per ragionevolezza vi invito a diffidare di chi vi prende per i fondelli. Appuntamento a domani, Linea Generale Radio.